Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. C'è la crisi economica, c'è la povera gente, c'è la cassa integrazione. E ci sono quelli che la cassa integrazione neanche ce l'hanno. E poi ci sono gli evasori fiscali. Certamente è un po' paradossale l'idea che da una parte ci siano delle persone che già soffrivano prima e ora soffriranno ancora di più per la crisi, e dall'altra parte invece ci siano persone che, con vari argomenti, giustificano la loro evasione fiscale. Argomento tipo: i servizi sono scarsi, ci sono gli sprechi, la politica costa troppo. Quelli che, volenti o nolenti, le tasse le pagano tutte, pensano le stesse cose, ma le tasse le hanno sempre pagate e continueranno a pagarle. Sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista morale, rimane il fatto che chi non paga le tasse crea un problema enorme a chi le tasse le paga tutte. L'evasione fiscale è profondamente ingiusta nei confronti dei cittadini onesti che le pagano. Ricordo che tutti, chi più chi meno, utilizziamo le strade, le metropolitane, le ferrovie, utilizziamo le scuole, gli ospedali e tutti vogliamo sicurezza dalle forze dell'ordine. Tutto viene pagato dai cittadini onesti, che le tasse le pagano. E non è che loro siano contenti degli sprechi, o della politica che costa troppo, o dei servizi che sono scarsi. Poi ci sono quelli che dicono che le tasse sono troppo alte e che se le pagassero tutte dovrebbero chiudere la loro attività. E tutti gli altri? Quelli che le tasse le pagano e non chiudono, e non possono chiudere? Cosa fanno? Forse è ora di smetterla, di dire che l'evasione fiscale c'è sempre stata e sempre ci sarà. Intanto diciamolo e ripetiamolo all'infinito che molti le tasse le pagano tutte e molti altri, tanti, troppi, in questo paese, le tasse non le pagano. Basta con questa storia che siccome sono troppo alte qualcuno decide di non pagarle. E quelli che le pagano nonostante siano alte? E adesso, siccome il debito pubblico di questo paese è cosmico, non si può aiutare la povera gente. Ma se avessimo avuto metà dell'evasione fiscale degli ultimi 10 anni, oggi disporremmo di 500 miliardi di euro. Altro che dello 0,4% del PIL. Sergio. La mia vicina di casa di 72 anni mi ha chiesto cortesemente se potevo aiutarla nel compilare il modello per la richiesta della carta acquisti. Ho aperto la busta e ho trovato le istruzioni. 3 fogli scritti che non un settantenne, ma nemmeno io che sono molto più giovane, avrebbe avuto voglia di leggere. Inizio la compilazione di tutti i dati anagrafici. Servono poi i riferimenti della carta d'identità. La mia vicina deve tornare a casa per recuperare il documento, alla sciatica, e perciò camminare le è molto faticoso, ma ce la fa. Procediamo con la compilazione. Le chiedo se devo barrare beneficiario diretto, tutore del beneficiario, delegato del beneficiario. Mi guarda smarrita. Che cos'è? Mi chiede. Non so niente di queste cose io. Arriviamo al quadro 3, una sfilza di righe per i requisiti necessari. Comincio a leggere, ma dopo qualche riga mi chiede di fermarmi. Non riesce a capire cosa vogliono da lei. Alla fine del quadro 3 si deve barrare se sei coniugato o non sei coniugato. La signora è vedova. Un vedovo è coniugato o non coniugato? Faccio il numero verde e rivolgo la domanda all'INPS. Dopo 8 minuti di consulto, la signora all'altro capo del filo mi consiglia di barrare la casella coniugato, al che le faccio presente che compilando quella casella devo indicare nel quadro successivo i dati del coniuge. Metto i dati anagrafici del morto? Le chiedo. Altri 5 minuti di consulto e mi dice di barrare la casella non coniugato. Bene, andiamo avanti. Al quadro 5 ci sono le dichiarazioni facoltative che vi inviterei a leggere e che non prendo neanche in considerazione. Arriviamo alla firma e agli allegati. Serve copia della carta d'identità e il certificato ISEE. Per avere un certificato ISEE è necessario recarsi presso un CAF o un patronato con il CUD o la dichiarazione dei redditi, l'estratto conto bancario al 31 dicembre dell'anno precedente, i redditi di fabbricati, eccetera, eccetera. A questo punto la signora dovrà recarsi presso un CAF o patronato per farsi rilasciare il certificato ISEE, dovrà procurarsi una copia della carta d'identità e alla fine, si spera, si recherà presso l'ufficio postale. Il tutto per ottenere questa social card con un PIN che verrà rilasciato in busta chiusa e che solo di nascosto dovrà aprire. Ripeto, la signora ha 72 anni, è zoppicante per la sciatica, fuori fa freddo e deve uscire a piedi per tutte queste incombenze. Vi sembra possibile tutto questo? Non aggiungo altro. Saluti da Carla, una cittadina italiana qualsiasi. Una provocazione. Ecco la Rai che vorrei. Solo due reti. Uno Rai News 24, due Rai Educational. Con questi due soli canali, la Rai svolgerebbe comunque la sua funzione di TV pubblica, trasmettendo informazione e cultura, ma in compenso si ridurrebbero i costi del carrozzone, compreso l'odiato canone e tutte le varie beghe e liti inutili tra i partiti. Vedi sorveglianza, presenza in TV, eccetera. Le frequenze liberate andrebbero all'asta, nella speranza di avere un ulteriore terzo provider oltre a Mediaset e Sky. Che ne pensate, Andrea? Cosa ne pensa l'agente Falco della legalizzazione dell'eroina e delle droghe in generale? Nota bene, non parlo di liberalizzazione, ma di legalizzazione. Quanti soldi buttano gli stati per combattere il narcotraffico senza praticamente ottenere concreti risultati? La droga si trova praticamente ovunque e il proibizionismo gonfia il prezzo della sostanza, permette alle mafie di guadagnare tantissimo e grazie a questi soldi permette loro di comprare la politica e la polizia e di inquinare l'economia. Ne vale la pena? Marco. È da un po' di giorni che sento parlare della cosiddetta questione morale, quasi fosse cosa tipicamente italiana e di questi ultimi anni, o legata alla notissima vicenda di Tangentopoli. Quando ne sento parlare, non posso far altro che riandare mentalmente all'insegnamento di un pensatore del Settecento, tale Jean-Jacques Rousseau di Ginevra, il quale affermava lapidariamente che chi avesse voluto distinguere la morale dalla politica non avrebbe dovuto seguire né l'una né l'altra. La virtù, come la definiva, la si può anche chiamare morale o etica, è merce così rara tra gli esseri umani che non ci resta che ammettere che il potere, politico nella fattispecie, è come la ruggine che corrompe e deturpa il ferro più resistente, cioè l'onestà personale, per trasformarla in polvere. Mi ha inquietato e offeso sentire un ascoltatore che diceva che il marcio è nelle istituzioni, come nella società italiana. Certo che le istituzioni sono lo specchio della società, ma ne sono anche l'esempio. Se abbiamo dei politici che fanno schifo, tranne pochissime eccezioni, la responsabilità è anzitutto loro. Ma bisogna davvero essere pragmatici. Chi non raccomanderebbe il figlio in un concorso? Chi non favorirebbe un amico in una pratica d'ufficio? Io non sono l'esempio della probità pubblica e la vita mi ha insegnato a diffidare per principio dai puri. Ma il senso della legge e dello Stato, almeno finora, non m'è mai mancato e ho cercato di insegnarlo ai miei figli. Per tale ragione mi sento in diritto di rivendicare l'onestà e la pulizia di questo nostro popolo italiano, che ha il solo enorme difetto di non avere ancora imparato a liberarsi, rapidamente in modo civile e democratico, di quattro furfanti che lo attanagliano. Alfredo, Roma. Scrivo a proposito della riforma della giustizia. Bisognerebbe tenere presente che, comunque la si pensi sull'obbligatorietà dell'azione penale, questo principio è in realtà inapplicato. Un po' perché si tratta di qualcosa di inapplicabile e un po' perché ci sono, già ora, direttive interne alla magistratura che prevedono di dare priorità al perseguimento di determinati reati. Quello che molti non capiscono, anche in buona fede, è che non è che se i politici sono tutti dei furfanti, i magistrati siano tutti uomini per bene e infallibili. La questione dell'indipendenza della magistratura va sempre limitata in qualche modo col controllo del Parlamento e viceversa. Molti di Pietrini sottovalutano il fatto che non è che i giudici possano, in nome dell'indipendenza, essere totalmente slegati dal controllo dei rappresentanti dei cittadini. Simone. Egregio direttore, ho appena terminato una telefonata con mia zia che vive in Venezuela da circa 12 anni. Le informazioni sull'Italia che circolano in Venezuela sono le seguenti. In Italia la gente non arriva alla terza settimana. La gente la sera cena con pane e latte. La situazione italiana è tragica. Berlusconi ha messo in atto l'aiuto per la popolazione che muore di fame. Per giustificare la crisi indotta, si deve presentare il paese alla fame? I vertici della Fiat si lamentano perché non arrivano gli aiuti al settore auto, a tutti o a nessuno, e chiedono perché in America e in Europa sì e in Italia no. Ma in tutti questi anni, cosa è successo in Italia? Il debito pubblico non è forse cresciuto proporzionalmente agli aiuti alla Fiat? Cassa integrazione, sovvenzioni a fondo perduto, Alfa Romeo in comode rate senza interessi, eccetera? In questi ultimi anni, non è forse stato dato il sovvenzionamento per la demolizione dell'auto inquinante a chi ne comprava una nuova? La Fiat, che cito solo come esempio dato che tutta la borsa italiana è così, a luglio del 2007 ha raggiunto il valore di 24 euro per azione e ora, dopo un anno, vale 5 euro. Eppure gli utili sono a livello dell'anno scorso. Molte aziende sono state quotate in borsa e dopo non più di un mese hanno iniziato una costante discesa, accentuata in quest'ultimo periodo. Io penso che alcuni abbiano beneficiato a discapito di molti. Penso che questa crisi sia creata ad hoc per motivare le operazioni di arricchimento. Del resto, non serve essere laureati per capire che un'azienda che sposta la produzione nei paesi emergenti lo fa per motivi economici, che molti poi chiudono le produzioni nel proprio paese, mentre altri, invece, probabilmente a causa del grande numero di assunti, le tengono aperte, ma necessitano di aiuti statali. Così, all'estero si fanno utili e nel proprio paese si importano i costi. Stefano. Per limitare la proliferazione delle province e dei loro costi, basterebbe che il Tesoro dimezzasse il budget per le stesse. Per esempio, se per la regione Puglia lo Stato paga 100 milioni, dovrebbero essere sempre 100, sia che le province pugliesi siano 5, sia che diventino 9. Solo così si fermerebbe la proliferazione delle province, senza pensare alla loro abolizione totale. Giovanni. Sono un amante del bel canto e sapendo che giovedì scorso c'era su Rai 3 una serata dedicata al tenore Andrea Bocelli, mi sono detto, beh, meno male che ho un'occasione per rilassarmi con la nostra bella musica italiana. Purtroppo però la gioia di ascoltare la voce di Bocelli e le stupende melodie tradizionali italiane è stata rovinata dalle scemenze di Luciana Littizzetto. Credo che l'arte di far sorridere o ridere di gusto sia fra le più difficili, ma meritoria quando fatta con intelligenza. Per questo esige studio e impegno, come l'arte di cantare o suonare bene. Qui invece siamo di fronte a una che improvvisa tutto quello che le viene in mente e in modo grossolano e volgare. Mi dispiace contraddire il pubblico, che pareva divertirsi molto a quegli sproloqui, e mi dispiace anche per i moltissimi estimatori della Littizzetto, ma mi sarebbe piaciuto sentire qualche fischio di disapprovazione. Non capisco perché un cantante lirico possa venir fischiato quando non lo si ritiene all'altezza della situazione, mentre un comico, solo perché è sulla cresta dell'onda, possa dire quello che vuole. Il contrasto con l'armonia che promana dalla bella musica e la disarmonia prodotta dalla Littizzetto era davvero stridente. Credo che non abbia fatto bene all'arte di Bocelli, ma forse io sono un reazionario oscurantista che non capisce l'arte comica progressista di Fazio e compagnia. Ormai abbiamo perso il senso di tutto ciò che è, lecito o illecito, bello e brutto, e mangiamo tutto. Ci si conforma e basta, altrimenti si fa la figura dei bacchettoni. Claudio. Gentile direttore, alcuni giorni or sono, il governo cinese ha svalutato la loro moneta e se si esclude un articolo sul Sole 24 Ore, tutto il resto del mondo tace. È un atto di una gravità inaudita. Pensate che per tenere equilibrato il mercato interno all'Unione Europea abbiamo inventato una cosa orripilante come le quote latte e le quote camicia, o le quote blue jeans, o meglio ancora le quote giocattoli. Perché tutte queste cose non ci sono per la Cina? Ma soprattutto, perché state tutti zitti? Che cosa c'è sotto? Forse la Cina ha minacciato l'Occidente? Si sa, hanno i missili e le armi nucleari, e allora tutti zitti. Ma che nessuno rompa l'omertà mi sembra veramente qualcosa di straordinario. Siete forse tutti d'accordo? Quante guerre commerciali fra i due lati dell'Atlantico. Abbiamo ben presente le ritorsioni che il governo degli Stati Uniti faceva appena il governo nostrano si azzardava ad aiutare, che so, l'industria della pasta, dei maccheroni. Ed ecco che subito gli americani bloccavano le Ferrari con dazi e regole assurde. I cinesi no. Loro possono fare tutto quello che vogliono e nessuno dice niente. Cosa c'è sotto? Signor direttore, non può tacermelo. No, anche se è terribile, è meglio sapere. Perché la Cina può controllare la moneta, il cambio, la forza lavoro, i sindacati, le condizioni di lavoro e noi no? Fosse una piccola nazione di 2 o 3 milioni di abitanti potrei capire, ma con una forza d'urto di 1.300.000.000 di abitanti, se non la si tiene regolata distrugge tutto, ed è quello che sta facendo. E gli occidentali? Tutti zitti. C'è sotto qualcosa. Cesare. Caro Cesare, mi creda, non c'è nessun complotto dei mezzi di informazione per tacere sulla realtà della politica o dell'economia. I giornali, le radio, le televisioni non rispondono a interessi nascosti o a direttive di poteri più o meno occulti. E sulla Cina l'informazione è stata ampia con le Olimpiadi e continua a essere la più larga possibile. Il Sole 24 Ore ha un corrispondente a Shanghai, un altro a Tokyo, che collaborano regolarmente anche con la nostra radio. Le notizie che raccogliamo le diamo tutte e subito. Quanto al merito della realtà cinese, devo dire che non c'è stata alcuna decisione di svalutare la moneta. Ci sono stati dei movimenti sul mercato dei capitali che in talune occasioni hanno portato a una perdita di valore, ma negli ultimi mesi la moneta cinese si è invece sostanzialmente rivalutata anche per il forte attivo commerciale di Pechino verso il resto del mondo. E peraltro, nell'attuale mercato delle valute, in cui i cambi sono flessibili e decisi di giorno in giorno dalla domanda e dall'offerta, non si può parlare di svalutazioni o rivalutazioni della moneta come si faceva qualche decennio fa in regime di cambi fissi. Grazie, comunque, sono d'accordo con lei. Verso la Cina bisogna avere la massima attenzione. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.